Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Dal 26 marzo al 30 aprile del 1848. Guerra agli austriaci, Pio IX si sfila, è contrario alle nostre intenzioni, dice. A Pastrengo importante vittoria dei piemontesi sull'esercito di Vienna. Muore nella sua città a Bergamo il grande compositore Donizetti. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura ancora le cronache dall'Italia. Tra poco andremo sul fronte per quel che è successo a Pastrengo, ma prima l'evento che potrebbe avere maggiori ripercussioni a livello politico nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Sono le parole con le quali Pio IX si è tirato fuori dalla guerra. Lo ha fatto nella sua allocuzione ai cardinali riuniti in concistoro. Abbiamo raccolto le sue parole. Siccome ora alcuni desidererebbero che noi entrassimo in guerra contro i germanici, abbiamo ritenuto nostro dovere dichiarare, chiaramente e palesemente, che ciò è del tutto contrario alle nostre intenzioni, in quanto noi, benché indegni, facciamo in terra le veci di colui che è autore della pace e amatore della carità, e per dovere del nostro supremo apostolato, noi, con eguale paterno affetto, amiamo ed abbracciamo tutti i popoli e tutte le nazioni. Così il Papa, mentre, come si diceva, nel Veronese i piemontesi hanno ottenuto un'importante vittoria proprio contro gli austriaci. Forse non è ancora decisiva, ma per le truppe sarde, affiancate in questa campagna da volontari italiani e dalle forze pontificie del Regno delle Due Sicilie che premono da sud verso il Veneto, la vittoria di Pastrengo è una forte iniezione di fiducia. La spedizione dei piemontesi, articolata su due corpi d'armate forte di 30.000 uomini circa, ha puntato sul Mincio all'inizio di aprile, dopo aver rinunciato ad attaccare Mantova, fortemente presidiata. Carlo Alberto ha deciso di attaccare verso la parte alta del quadrilatero fortificato che costituisce il sistema chiave della difesa austriaca del Lombardo-Veneto. Obiettivi dunque Peschiere e soprattutto Verona, così da tagliare fuori le truppe austriache a sud, a Mantova e Legnago. Conquistati i ponti a Goito, Monzambano e Borghetto Valeggio, la spedizione sarda ha assediato Peschiera. A questo punto Carlo Alberto ha deciso di tagliare le comunicazioni tra Peschiera e Verona con un'azione affidata al secondo corpo del generale De Sonnaz verso i colli di Pastrengo e Bussolengo. L'attacco si è mosso su tre colonne che però avanzavano molto lentamente. La svolta decisiva è stata quasi fortuita. Tutto è avvenuto grazie alla carica di tre squadroni di carabinieri di scorta a re guidati dal maggiore Alessandro Negri di Sanfront, intervenuto quando Carlo Alberto, avvicinatosi al fronte, è stato fatto oggetto di raffiche austriache. L'impeto dei carabinieri ha travolto le truppe di Radetzky proprio mentre le colonne principali riprendevano l'offensiva. A fine giornata gli austriaci hanno sgombrato Pastrengo. Verona adesso è più vicina. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Una È morto il grande musicista gaetano Donizetti, del quale sentite in sottofondo l'aria Una furtiva lacrima dall'opera Elisir d'amore. Nato a Bergamo 50 anni fa, si è spento nella sua città natale, dove era ritornato dopo essere stato rinchiuso nel manicomio di Ivry, in Normandia, per la follia provocata dalla sifilide, malattia che alla fine lo ha ucciso. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog, la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento, fatelo prendendo penne e calamaio elettronici. L'indirizzo è sempre gazzettino@radio24.it. da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.